Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono le 12:15, buona domenica da Lara Zani e Rita Micoli in apertura di questa edizione del giornale radio. Il buon momento delle strutture turistico-ricettive, soprattutto a Trieste. Tante le presenze propiziate dall'inizio della stagione dei saldi e sono molti anche i visitatori che scelgono la città per riscoprire le proprie origini. Le belle giornate hanno incentivato le presenze nel capoluogo giuliano, un fine settimana anche all'insegna dell'inizio della stagione dei saldi con numerose presenze da Slovenia, Croazia e Serbia. Secondo Federalberghi, alcuni approfittano di una sosta di qualche giorno durante il viaggio verso i Balcani, dove i serbo-ortodossi festeggiano il Natale, il giorno dell'Epifania cattolica. Manca il vero tutto esaurito tra alberghi e Airbnb, ma la situazione è decisamente migliorata se paragonata alle scorse stagioni. Federica Suban, presidente FIPE regionale. Ma direi un bilancio sicuramente positivo. Abbiamo visto che dopo ovviamente il Natale, che è dedicato soprattutto ai triestini, alla famiglia, e abbiamo avuto delle giornate decisamente intense con presenze di turisti molto elevate, sia italiani che stranieri. Qualche turista che arriva, che mi è mancato, qualche nazionalità particolare? Ma allora, quello che si nota di più sono tanti e un misto, cioè di turisti stranieri, ma che vengono a ritrovare le origini. Cioè molti immigrati, soprattutto anche destinazioni come Australia, Sud America, che vengono a Trieste e cercano i posti dove avevano sentito parlare dai loro nonni. Perciò c'è questo così turismo delle origini, chiamiamolo in questa maniera, che fa anche questo riscoprire la voglia di conoscere la città che faceva parte ovviamente della vita della loro famiglia. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E in montagna si chiudono le vacanze di Natale dei turisti della neve, bilancio e prospettive nelle parole di Diego Bellotto, presidente del mandamento di Tarvisio di Confcommercio e Federalberghi. È andata molto bene, nel senso che tutte le strutture ricettive di ogni forma e natura erano al completo, insomma, almeno fino all'Epifania. Adesso arrivano le vacanze dei paesi dell'est, che solitamente arrivano un po' dopo quelle principali italiane, e quindi confidiamo in questo. Per quello che riguarda le prenotazioni delle settimane bianche per le ultime due settimane di gennaio, le previsioni sono molto buone. Naturalmente bisogna aspettare ancora un po', però insomma siamo ottimisti su questo. Tarvisio, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora il meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 5 gradi, a Gorizia e a Udine 4 gradi, a Pordenone 2 gradi, a Tolmezzo 1 grado sotto lo zero, a Forni di Sopra 2 gradi sotto zero, a Tarvisio 1 grado positivo, sul Piancavallo meno 4, a Sappada e sul Monte Zoncolan meno 6 gradi, sul Lussari meno 5, sulla costa Grado e Lignano 5 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA. Nelle prossime ore cielo da nuvoloso a coperto dalla costa alle Prealpi. Probabili piogge in genere deboli sulle zone orientali di pianura e costa e sul Carso, con possibili foschie. Possibile qualche debole nevicata sulle Prealpi Giulie, nelle valli del Natisone e sul Carso, inizialmente oltre i 300-400 metri, poi a quote un po' più elevate con possibile formazione anche di ghiaccio al suolo. Sui settori più interni e in quota della zona montana, tempo migliore con cielo variabile. Domani cielo in prevalenza coperto con nuvolosità meno consistente sui settori montani più interni al confine con l'Austria. In giornata probabili piogge sparse deboli o moderate sulle zone orientali. Dalla sera possibili su tutte le zone con quota neve inizialmente a 700 metri circa, in innalzamento poi nella notte. Possibili foschie o nebbie sulle zone orientali, specie sul Carso. In scena oggi a Trieste lo spettacolo L'alabarda in fondo al mare, la vera storia del battiscafo Trieste, che recupera la memoria storica di come questa impresa, il record di profondità compiuto dal sommergibile, si legò indissolubilmente alla città di Trieste. Alle 17:30 al Teatro dei Salesiani di Via dell'Istria. Sarà un giovane narratore, interpretato da Francesco Alupca, a introdurre gli spettatori nella storia del battiscafo. Lo abbiamo intervistato. Il battiscafo Trieste è questo sommergibile costruito nel dopoguerra, diciamo, che fu il primo a raggiungere un record di profondità, quasi 11.000 metri, nella fossa delle Marianne. La particolarità è che fu un progetto italo-svizzero-americano che in gran parte venne realizzato a Trieste soprattutto con il sostegno di Diego de Enriquez, che era un noto concittadino nostro di quell'epoca. Quindi Trieste ha un ruolo fondamentale in questa storia. Perché la decisione di raccontare la sua storia? Perché è stata dimenticata la prima parte, diciamo, della vita di questo battiscafo, quello che riguarda la realizzazione, la ricerca dei finanziamenti, eccetera, e questa prima parte riguarda Trieste. Invece si ricorda la seconda parte, tutta la vicenda americana, quando poi la Marina americana negli anni 70 acquistò il battiscafo, che infatti attualmente si trova a Washington. Quindi raccontiamo un po' la parte inedita che magari le persone non sanno ancora. In questo racconto, nello spettacolo, c'è un tentativo di utilizzare l'intelligenza artificiale, che poi fallisce sostanzialmente. Sì. Perché questa idea? Si è partiti con quest'idea perché ovviamente si voleva raccontare qualcosa di scientifico, quindi fare un parallelo tra quello che poteva essere magari il massimo della scienza all'epoca e il massimo della scienza oggi. Da parte mia che ho scritto il testo e anche da parte di mio padre che ha scritto il libro a cui ho ispirato il testo, c'è stata una presa di posizione riguardo un po' una deriva che possono prendere queste intelligenze artificiali quando non le si controlla, quando le si vuole sostituire troppo all'uomo. Quindi è una riflessione anche sulla memoria umana che non è sostituibile del tutto da una macchina, le emozioni che poi verranno raccontate da questo professore sostituendo la macchina non riuscirà mai a trasmettere, insomma. E oggi cominciano subito dopo il tramonto i riti di accensione dei fuochi epifanici. Anno nuovo, tradizione antica, anche questa epifania sarà salutata in tutta la regione con l'accensione già la sera del 5 gennaio di fuochi e falò, rituale che prende molti nomi dai pignarui ai panevine fino alle foghere o fogarele, e c'è chi brucia la vecchia, la femminate come a Paularo o il grande Cries a Mersino. Insieme ai fuochi ci saranno, a seconda delle località, rituali, benedizioni, zampogne e grandi vecchi che fanno previsioni sul nuovo anno. In tutti c'è da bere e da mangiare, come al panevin di Villanova di Pordenone, preceduto dalla tradizionale fiaccolata, e il mega panevin della Comina, seguito dai pronostici sul 2025. Alla tisana, invece, la foghera sarà galleggiante, accesa sul tagliamento la sera, insieme a uno spettacolo di fuochi d'artificio, mentre a Lignano prima si accende il fuoco e poi arriva la Befana dal mare. Fuochi accesi anche a Sacile, Montereale, Ialmico, Zoppola, Villesse, a Caneva, con lo spargimento delle ceneri, il Toc de Nedal. Il Pignarul torna, dopo diversi anni, anche a Basaldella, e a Casarsa la foghera di San Giovanni sarà accompagnata dalle zampogne. Il rito, che chiude la stagione delle feste natalizie e introduce il nuovo anno, affascina e attira anche i turisti, ma come ricorda l'ISDE, Medici per l'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, può essere dannoso per la salute. Le polveri sottili sprigionate in gran quantità dai fuochi possono provocare infiammazioni alle vie respiratorie e portare a sviluppi anche più gravi. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, un punto soltanto perché l'Udinese ha avuto occasioni e anche l'uomo in più, ma non è riuscito a battere l'Hellas, fermandosi sullo 0-0. Rugnai ci ha messo in campo l'esordiente Solet, a centrocampo si è rivisto Paiero dopo due mesi di infortunio. L'inizio però è dell'Hellas, nella ripresa sale l'intensità e aumentano le occasioni da gol da entrambe le parti. Gökhan İnler, responsabile dell'area tecnica bianconera, è soddisfatto a metà per il risultato e contesta la decisione arbitrale su un episodio dubbio in area giallo-blu. Possiamo essere contenti perché 25 punti prendere, secondo me, è stata fondamentale. Secondo me c'era almeno da controllare con il VAR. Sandy Lovric ha avuto un tocco, anche un graffio sul caviglia, quindi c'era un tocco lì e secondo me si doveva controllare e fischiare il rigore. Stiamo lavorando veramente tanto per questi obiettivi, ci frenano un po', no? Di andare avanti, quindi i ragazzi danno il massimo, episodi c'è stata, diciamo, tante volte contro. Però dobbiamo guardare avanti adesso e spero che tutti si fanno di più, anche arbitri, anche noi, anche i giocatori nel campo. Ora il basket, tutte e tre impegnate le squadre regionali in A1 pallacanestro. Trieste impegnata alle 17:30 sul parquet di Scafati, in A2 invece Apu Old Wild West Udine in casa della Fortitudo Bologna, palla 2 alle 18, e alla stessa ora a Cividale la Gesteco affronta Pesaro. Nello slalom di Kranjska-Gora di questa mattina la tarvisiana Lara Della Mea si è classificata nella prima manche al 34esimo posto, 55esima la triestina Caterina Sinigoi che corre però per i colori sloveni, alle 13 la seconda manche. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio della Rai del Friuli Venezia Giulia, la parte tecnica Federico Comar e Samuel Montalto. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.